Respiro. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Laura Bettini, ecco una nuova puntata di Respiro e questa settimana approfittiamo di un evento in corso negli ultimi giorni a Rimini, ovvero Ecomondo, una grandissima fiera ormai rinomata durante la quale sono stati presentati dei dati, di cui tra poco discutiamo, dati relativi alla produzione e allo smaltimento purtroppo illegale degli pneumatici, un tema del quale discutiamo con il direttore generale di Ecopneus, Giovanni Corbetta. Ecopneus è un consorzio dei produttori che è nato per la gestione, il rintracciamento, la raccolta e il trattamento degli pneumatici. Buon pomeriggio, benvenuto con noi. Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie di questa occasione di poter commentare questo tema così interessante ed attualità. Io le chiedo intanto di presentare anche ai nostri ascoltatori questi dati che voi avete portato a Rimini sui numeri impressionanti dello smaltimento illegale di pneumatici. Sì, approfittando della fiera di Rimini che in questo periodo raduna qui appunto a Ecomondo tutti i principali soggetti interessati al trattamento dei rifiuti in Italia, quindi una grande occasione per chi si interessa di questo settore, abbiamo ritenuto opportuno presentare un dossier che è stato preparato da Lega Ambiente, utilizzando dati già da loro raccolti negli anni passati, per dare una fotografia sintetica ma molto esaustiva e dettagliata di come è fatta la situazione italiana, quindi sostanzialmente far presente che in Italia ci sono oltre 1000 siti in cui giacciono pneumatici fuoriuso abbandonati e questa è purtroppo una situazione che deriva dal fatto che nel passato molto spesso società, aziende, organizzazioni, cittadini poco scrupolosi hanno preferito abbandonare in qualche posto un pneumatico invece che incanalarlo nella corretta filiera del trattamento. Questo perché? Che convenienza avevano nel fare questo? Ma il trattamento di un rifiuto, compreso il pneumatico, quando ha finito la sua vita come oggetto, diciamo, di utilizzo a bordo di un veicolo, è oneroso per chi lo detiene, quindi chi vuole procedere o chi deve procedere allo smaltimento dell'oggetto, al recupero del rifiuto, deve contribuire a questi costi e quindi evitare di farlo nel canale legale vuol dire risparmiare dei soldi. In questo rapporto, tra l'altro, Legambiente, voi segnalate anche alcuni casi in cui si vede non solo l'abbandono del pneumatico per strada, nei campi, così, ma anche l'utilizzo da parte delle mafie di questi pneumatici. Sì, perché il pneumatico a fine vita rimane comunque un oggetto con elevatissimo potere calorico, quindi è un ottimo combustibile per essere utilizzato e bruciare altri rifiuti che invece hanno più difficoltà a bruciare, quindi in questo caso viene asservito il pneumatico alla combustione di altri rifiuti quali plastiche, legno, vernice, rifiuto domestico che non avendo la possibilità di bruciare da solo in maniera corretta, in maniera sufficientemente completa, trova nel pneumatico qualcosa che tiene ben alimentato il fuoco. Tutto questo dossier ci serve per rappresentare la situazione attuale, dove noi interverremo invece in base a un decreto di prossima pubblicazione che cambierà il sistema di gestione di questo tipico rifiuto all'interno dell'Italia. Un po' come è successo in altri settori, arriverà questo consorzio, che siete voi, che si occupa direttamente della gestione, rintracciamento, raccolta, trattamento, eccetera, eccetera. Quindi diventerete il punto di riferimento di tutti coloro che lavorano in questo settore. Sì, non saremo un soggetto unico perché la legge prevede la nascita di più organizzazioni, ma certamente Ecopneus sarà uno dei principali soggetti, anche perché è stato costituito dai principali importatori e produttori di pneumatici in Italia e quindi raggruppa alle proprie spalle un dovere importante in termini di quantità da trattare. Che tempi ci dovrebbero essere per l'approvazione definitiva e quindi la partenza? Il decreto è previsto a cavallo di fine anno, quindi o ultimi giorni di quest'anno o i primi giorni dell'anno prossimo, e questo in base, diciamo, a notizie ufficiose che ci sono state passate, e successivamente nel giro di 3 mesi si deve andare ad inizio attività, quindi diciamo 3 mesi per preparare gli ultimi dettagli e quindi essere finalmente operativi diciamo verso aprile maggio. Questa è un po' la miglior previsione, quindi siamo veramente ormai molto molto vicini all'inizio di questo nuovo modo di gestire questo rifiuto, che effettivamente, come diceva lei, è l'ultimo dei grandi rifiuti non ancora inquadrati in un sistema di gestione corretto, come invece già avviene per tantissimi altri imballaggi, batterie, oli e così via. Che cosa ci si può fare una volta raccolti questi pneumatici? Ritornano in circolazione come? Sotto che forma? Allora, i pneumatici raccolti, e saranno poi tutti, perché l'obbligo di legge di raccolta è del 100%, quindi non è un obbligo parziale ma un obbligo totale, farà sì che su questa grande massa raccolta annualmente dell'ordine delle 350.000 tonnellate su base annua, possono essere fatte o devono essere fatte due tipi di attività. Per questo tipo di rifiuto esiste la possibilità di recuperarlo come fonte di energia, in quanto, come già dicevo prima, è un ottimo combustibile, ma può essere anche recuperato come materiale, materia prima seconda, dopo averlo disgregato in piccole particelle e averlo separato nelle sue tre componenti fondamentali. Un pneumatico è costituito da polimeri, è costituito da rinforzi tessili e da rinforzi metallici. Quando si vede bruciare un pneumatico si intravede che ci sono dentro delle parti metalliche, dei fili, che appunto sono quelli che noi chiamiamo rinforzo metallico. Mm-hmm. Bene, fatta questa separazione nelle tre componenti, soprattutto per la parte polimerica, si aprono interessantissimi campi di applicazione. Quindi anche da questo punto di vista, trattenere il più possibile in Italia questo materiale diventa un punto di attenzione. In realtà negli ultimi anni, spesso per problemi di gestione di questa filiera così complessa, lo scivolamento di questo materiale all'estero è stato frequente. Cioè, quindi c'era più convenienza nel portarli all'estero piuttosto che trasportarli in un altro luogo d'Italia? Sì, in questo momento sì. Cioè, noi invece abbiamo intenzione di aprire grossi progetti, anzi ne abbiamo già aperti alcuni, con università, con ovviamente le autorità, con le istituzioni e con alcuni operatori, quindi sempre in forma di, come dire, condivisa, per fare in modo che alcune applicazioni che in Italia oggi ancora non sono state introdotte vengano introdotte. Ad esempio quali applicazioni, per capire? Per esempio le strade. L'asfalto con bitume modificato con l'aggiunta di grano di gomma è molto noto come sistema, perché in Stati Uniti, in Canada, in Nord America sono 40 anni che viene utilizzato. In molti paesi del nord Europa ci sono decenni di questo utilizzo, in Italia questa metodologia non è ancora stata di fatto applicata. Ma se è così nota l'applicazione, questa applicazione, questa possibilità, secondo lei perché ancora non l'abbiamo utilizzata in Italia? Mancanza di cosa? Ma come tutte le cose nuove occorre sempre rompere un ghiaccio iniziale, ci sono abitudini, consuetudini, ci sono tradizioni, c'è sempre l'incognita del nuovo. C'è anche da dire che quando un'applicazione di questo tipo viene introdotta in un settore così complesso come quello stradale, che richiede gare d'appalto, capitolati, occorre una messa in moto di un processo di cambiamento piuttosto complesso. Direttore, io la ringrazio moltissimo. A lei. Grazie per essere stato con noi e a risentirci, a presto. Sempre sul tema e sempre da Rimini, sentiamo anche Ettore Musacchi, presidente del Consorzio Argo, associazione che riunisce aziende italiane che per l'appunto operano nel settore del recupero dei pneumatici fuori uso. Le imprese sono tantissime, perché? Perché il nostro settore è un settore per certi aspetti originale, unico, ovvero mentre dal riciclaggio della plastica rifà plastica, con la carta si rifà carta, eccetera, dal riciclaggio del pneumatico non si rifanno pneumatici, perché per motivi tecnici questa gomma è stata vulcanizzata per renderla più consistente, più resistente, più performante e quindi non può essere rifusa. La nostra attività consiste nel riciclarla macinandola e utilizzare questi materiali in applicazioni che sono molte volte frutto di sviluppo o di ricerca. Quindi noi con la gomma riciclata abbiamo aperto dei mercati che prima non esistevano e forniamo gomma a settori che prima non utilizzavano gomma. Un esempio di questi è il settore dei campi da calcio in erba sintetica, che sono fatti con un grosso apporto di gomma per dare le prestazioni di rimbalzo, le prestazioni tecniche della superficie, così come gli asfalti fatti con la gomma riciclata, che hanno delle migliori caratteristiche per quanto riguarda il drenaggio, la fonoassorbenza, la resistenza ai carichi statici e dinamici. Quindi questa gomma è una materia prima che è trasversale a più settori. Quindi alimentiamo una filiera che abbiamo stimato essere in 15.000 addetti, no? Tra le varie aziende che a valle utilizzano e applicano questi nostri prodotti. Quindi un bel comparto, bello ampio. Sì, forse manca un po' il sistema paese che così, non dico aiuti, ma almeno possa in qualche modo capire meglio come funzionano certe filiere per favorire quelli o superare quelli che possono essere a volte degli ostacoli anche così culturali, storici, geografici, no? Mi ricordo tra l'altro per quanto riguarda gli ostacoli legislativi, ma sugli ostacoli culturali, di aver parlato con un operatore del vostro settore che diceva quanto gli era difficile far passare i propri prodotti, perché la gente sapeva, i comuni sapevano che arrivavano dai pneumatici, sembrava chissà che cosa, insomma. Ma questo è un problema che è stato anche a livello europeo, forse l'hanno superato meglio o rimane ancora qualche retaggio di incertezza. Quando è che finisce di essere rifiuto, no? il prodotto? E quindi a volte c'è il sospetto di dire, ma però, ecco, noi appunto per questo abbiamo fatto una norma tecnica, che è uno standard europeo, che qualifica in modo inequivocabile le materie prime e i prodotti che otteniamo dai pneumatici, per cui un granulo di gomma fatto secondo certi standard è assolutamente una materia prima nuova, è un prodotto, no? Quindi usciamo dal mal di testa o dall'incertezza di poterlo qualificare ancora come rifiuto, con tutte le legittime, no, perplessità o timori da parte del consumatore. Senti, io la ringrazio molto, adesso la lascio al suo lavoro, però mi tolgo una curiosità. Molti di questi pneumatici finiscono in Cina, in Russia e così via, ma perché? Li smaltiscono illegalmente là o perché là li utilizzano? C'è di tutto, c'è una parte del mondo dove fare le cose costa molto meno e quindi questa materia prima se ne accaparrano per poi lavorarla. Altre volte temiamo che ci possono essere proprio degli smaltimenti più incontrollati, no? Ma questo, voglio dire, anche con buona pace di chi ipocritamente parla di riciclaggio, di ecologia e poi dopo si volta dall'altra parte. Se in Italia si volesse fare qualcosa, basterebbe sostenere di più gli acquisti verdi o gli utilizzi negli asfalti dei pneumatici, e saremmo noi come Italia a quel punto a doverli importare dall'estero come materia prima, no? per dargli uno sbocco. Ed è tutto anche per questa puntata, grazie ai nostri ospiti, grazie a Ettore Musacchi, che avete appena sentito, presidente del Consorzio Argo. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Per riascoltarci c'è il sito internet, la trasmissione, vi ricordo, è Respiro. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.